dunque, un po' leggero, poi fastidioso, tipo di notte. Io dicevo che sono fatto una camomilla, mi è passato, dopo la mezza mi sono fatto il latte con miele, con la gola, e come sono andato a letto. Stamattina alle 5, mamma mia, gira che ti gira, questo di dolore, questo va di faccia, tutto di via, tutto cara, tutto il pezzo ti prende, lì. No, la parte base inizia, se è fastidioso, non ti fa riposare, non basta male di gola, vaffanculo. Sono rientrato qua, c'è qualcuno sul 21? Sì, ci siamo tutti. Come è brutta è già questa radio? Diciamo che non è ottimale, è comprensibile, ma è una radio semplice, normale, dai. No, vabbè, già si sa che non è amplificata, ma parlo come modulazione, è brutto, molto brutta, considerandomi la realtà mia in persona. Non parliamo di forza di segnale di radio, come nitidezza, come cupa, come la senti? No, brutta non è brutta, dai. Non si può dire che è brutta, è una radio normale, basta, tutto lì. Come potrebbe uscire qualsiasi apparato con un microfono normale? Adesso il problema non sai cos'è già di questa studia, che microfoni ne ho diversi, però questo c'ha la connessione a 5 puli, ci vuole, o li cambio direttamente la connessione dell'apparato e me lo faccio così, in modo come tutti gli interpreti che ho, perché sennò devo modificare il microfono, voglio fare in modo che vada bene per tutti gli interpreti che c'è, perché questo non ho capito per quale motivo è diverso dagli altri le connessioni. Però c'è l'up-down. Sì, c'è la programma, c'è tutto, poi c'è questo tasto che non so cosa serva, locale distante, a cosa serve? Ah, lock praticamente è quando parli in città oppure quando parli fuori, capito? Per farlo uscire con praticamente con potenza minima e massima. No, con la potenza è un'altra cosa, c'è il tasto X Power, c'è un potenziometro, mi posso regolare a zero al massimo, quello lì è un'altra cosa, forse questo è per il... Ah, no, sì, lo sai che cos'è, il amplificatore dell'antenna, mi ha detto che c'era l'amplificatore dell'antenna, probabilmente è quello lì, locale distante, per i segnali bassi ti... in città vari ci metti in posizione locale, e per quando sono segnali distanti metti l'X. Chiedimi, fa che? E vuoi lo spinato a 6 giro io, No, no, questo non è a 6, è a 5, è strano, infatti li cambio direttamente la connessione dall'apparato io, glielo metto a 6 come quelli che ho della Intec. Infatti domani se vado alla GBC me lo faccio dare, in modo che sia uguale agli altri microfoni. Questo è a 6? Allora, no, tutti sono a 6 della Intec, gli altri apparati ne ho altri due io, c'ho la trattazione base e il Mobicon, sono tutti a 5. Scusa, sì, io da 5 non ho capito per quale motivo. Andrà bene vera, riprendi. Gianni, scusa un attimo, ero già bipo, è una cagata, basso, No, va bene. Si sente, cioè si sente, è comprensibile, perché non so neanche regolare le risposte, tutto qua. Poi c'ha il del Saturn questo qua, va bene, non te ne vai nulla. Thank you. 300, guarda. Di dietro? E qua fa me, dietro, direttamente al deposito. L'altra volta dentro la macchina. E poi Charlie! Qua sono Pierpa, in aspettativa che venga. In aspettativa. Capri, c'è ancora qua? No, Capri è andato a mangiare. Thank you. vedi con questo tipo di apparato? Allora, Santiago qualcosa, non lo so. La leggi, magari. Questo è proprio strozzato, dai. È molto schifoso, È un po' così, un po' occupato. Non è che sia molto bella, sì, è comprensibile, ma non è una radio limpida, dai. No, vabbè, non è una qua devo provare. Adesso mi sa che questo Inter, questo M600, li faccio le connessioni e lo metto su quell'altro Inter che è stato nel base, quello nuovo che mi è arrivato. Poi c'è anche Delta Tune, questo Inter, che non so cosa possa servire, no, che su canali, su 40 canali, boh. Ascolta, ma quello che ti è arrivato anche le bande laterali c'ha? No, non ha le bande laterali, c'ha solo AM FM, più c'ha di funzioni, il Roger Deep, il tasto ecco, c'è scritto però, non ce l'ha, c'è la scheda a disposizione, poi c'ha Mickey Gain, RF Gain, lo Squelch, questo Delta Tune, il tasto di trasmissione di regolazione potenza, poi due tastini up down a salire e scendere, il tasto canale 9, scansione dei canali, locali distanti e la commutazione trasmissione, come si chiama, dello Smith, trasmissione cos'è? E potenza. È piccolino, ma l'ho preso perché mi serviva, già te l'ho detto, questo è un tipo di apparato del genere. Stazione base, quello, no? Ehi, la stazione base di grandezza è, cosa ti posso dire, appena appena più piccolo del 440, più stretto, e un po' più basso. Ah, quello te lo porti giù al mare? Per il mare mi serviva, però bisogna portarmi la 48 che, come si chiama, che ci vuole l'alimentatore, tutto canto, uno schifo, dai. Con quello lì c'è l'altro quarantino frontale, è un pochettino, rispetto alla 48, dai, sarà due volte l'altezza, due volte un pezzettino, e di larghezza una volta e mezza. A 2,20 va quello? Va a 2,20 e poi c'è anche la possibilità di farlo andare a 13,8, c'è l'attacco dietro, tipo quello di casa, vedi a casa, gli accendi i sigari, dai. Ho capito, eh. A 12 volte, eh. Pier Paolo! Cava. Chi è rimasto oltre me, Roberto? Forchetto, ci sei, Natalino, tutti gli altri, dove sono finiti? Scusami un attimo, Gianni, un attimino, il segnale è cambiato tra questo e l'altro? Non stavo guardando il segnale, Roberto, mi dispiace, ma non ho controllato. Allora, vabbè, tanto lo sto rimettendo l'altro, memorizza questo segnale già. Ola, quanto è questo? Vabbè. Adesso provo l'altro, dai. Prova, avanti Forchetto. Mulla, Falchetto, ci sei? E questo è l'altro. Prova. Quanto arriva? Appena di più, 9,5. Quindi appena mezzo va a tempo tira fuori, là. Questo c'è la regolazione della potenza, già è utile però lì, là. Magari se vuoi parlare basso basso ci riesci, là. Potrebbe essere interessante. Poi la radio, mi è migliore questa, tra le due, meno occupa, a parità di microfono. Sì, confermo, vabbè. E basta basta come radio già. Ma questa già è più pimpante dell'altra. Beh, si può accettare, dico, c'è bisogno di mettere per forza un amplificato per farmi sentire. No, è accettabile in città almeno, magari fuori no, ma in città va bene. Allora, beh, dai, proseguite un attimino che metto un po' in ordine, che c'è un po' di confusione qua, dai, continuate. Dove continuo, senti scappare. Sai che ha fatto un video di bianco. Cappa, riprendi tu Giuseppe allora. E cacca, io riprendo a risistemare la presa, io ho quasi finito. Una l'ho disintegrata, me l'ho toccata con cacciavite per collegare i fili, si è spezzata la palina dell'interruttore dove entra il filo. Nuova era. Adesso ho preso l'altra e sembra che stia andando bene. La casa pratica allora. Avevo comprato a luci. E allora c'è nel magazzino, capito, e le tirano fuori così. Dove l'hai presa? Una GPC? No, l'ho presa qui in quel negozietto che c'è a Rosello, dietro casa, dai. Ah, capito. Caro, non mi interrompo. Diciamo che comunque in vetrina, se ti capita di passare a piedi, guarda a fianco alla porta quei due alimentatori che ha. Ne ha uno che è bellissimo, soltanto che lo vuole troppo. Che alimentatori ha? Ma ne ha due, uno è una bestia, non mi ricordo adesso, però mi pare che sia uno, è possibile che sia dell'Intec. Sì, ma come sto 135 euro 50 ampere. Quindi c'è tutta un'altra musica, casa 50 ampere, non lo so io. Se si fa la spesa si fa una volta solo, perché è inutile prendere uno da 15, poi l'altro spendi i soldi per prendere la 30, poi ti serve la 40, poi ti serve la 50, conviene direttamente la botta e via. Sì, perché con la 50 c'è anche tre attacchi, li può attaccare tre cose diverse, la resistenza ce l'ha di sopportarle, quindi... E infatti io adesso mi consegno i soldi, dopodiché e quando arrivo alla cifra l'ordino e ve lo faccio mandare, già tanto non mi dettare tiro, ma adesso tiro avanti con questo, intanto riesco a uscire anche con questo, mi metto da parte ogni tanto qualcosina e via. Altrettanto ti dico, quando ce li ho me lo prendo, anche io, perché avevo certezza di riprendermelo, poi ho avuto un'altra spesa e via. Vabbè, comunque, è valido come alimentatore. Guarda in questo passaggio Gianni, fotografa con la mente la cosa, la radio e il segnale per un secondo. Fatto? K95. E adesso ho memorizzato meglio un pochino come adesso. Adesso è appena appena lì più 9.10. Va bene. Anda bene nera. Gianni, mi assento 2 minuti che porto dentro la luce alla bambina. Pagata. Hola. Chi c'è rotta, gatto? Natalino, chi sei? Dai, ci sei? Io sì. Questo come? Fa un passaggio un po' lungo. 1, 2, 3, prova la radio, dammi di quello. Ah no, questo qui è quello microfonico, è molto migliore. Sono un po' basso sono, no, perché qua lo stesso non ho fatto, se devo cambiare da un po' di tempo. Prova a farlo appena. Aspetta, se pensare sull'apparato è tutto a posto, sì, e mi chiedi che è a posto, guardami un po'. Adesso va bene. Vabbè, questa sia un'altra musica, forse si sente pure tipo il microfono. È un'altra storia, è come dal giorno alla notte, cambia. Via, e il segnale naturalmente forse qualcosina è cambiato. Prova. Hola, hola, questo c'ha Silva che tira fuori. 9.5 se siamo. Sì, come l'altra, siamo lì. Ok, segnale questo lo Smith, fa vedere, prova a parlare tu. Hola. Ma dove sei tu? Sono un po' a casa. C'è un segnale di 9.25 abbondante. Cavagava. Gianni. Oh, Massimiliano, ciao, buonasera. Ascolta, mi dai un controllo di radio? Una radio normale, ma si vediamo, va bene, è comprensibile, dai. E cupa, com'è? La modulazione, com'è? Allora, è chiaro. Bene, quindi. Cappa. Dici, va. Va bene, Massimiliano. Vagaba. Buonasera, buonasera comunque. Avanti, Roberto. Facciamo Massimiliano ben sentito. Ma mi ascolta a me con questo maracchinetto. Mamma mia, ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato anche a te. No, non mi piace. Per quale motivo? Oh, aspetta, forse ti sto ascoltando con un altro apparecchio, però può darsi che sia da quello. Sì, è totalmente un altro apparecchio questo. Questo è un vecchio pace, il maracchino base della pace. No, no, io sto dicendo, ti devo ascoltare col mio, no, sto provando io questo, mi hai capito? E niente. Com'è questo, Roberto? Con questo apparato che non ha altro parlante esterno ti ascolto perfettamente, bella radio, pulita e chiara, niente da dirti. Il segnale com'è? Il segnale qua si riprova un po'. Vedi un po', 1, 2, 3, 4. 9, 15 con più positivi. Guarda, vedi. E tu, come si chiama? Ciao, dove sei? Mi scusa, Massimiliano, dove sei? A casa sono, guarda adesso, mi vede, Roberto. 9 più 30. Addirittura. Bello, vabbè, un po' generoso, svetto, tu gli dai 5 punti, dai. 25, quindi. Sì, più o meno, eh. E allora va bene, no? Chi è questo? Ah, all'esterno, ma il lato apparato un po' siamo troppo vicini. Questo vabbè, quando sei vicino tende a saturare. E come si chiama? Come mi ascolti da quelle coordinate tu con questo microfono, Fate? Mango 25 Radio 5. Giuseppe, tu? 925 Radio 5. Chiara, bella, pulita o difficile? No, no, è bella pulita, va bene. Allora, vediamo un po' di fare un giro sul 21, riepiloghiamo Roberta per la parte, Massimiliano, Gianni, Franchetto e Giuseppe. Vediamo se c'è qualche altro nel frattempo e lo facciamo entrare. Avanti. Dietro, dietro. Antonio, tu come mi ascolti in vicinanza? Forse siamo troppo vicini. Oh, c'è una voce strana, Rita. Metallica. Non è che sono troppo amplificato, Antonio? No, non è che sia amplificato, sei metallico. Beh, questo è il tale, dai. Non lo so, vabbè, forse siete abituati alle altre radio. Vabbè, dai, accontentiamoci. Io ce ne accontento. Se non è comprensibile, ditelo. Sì, capisco, ma metallico, ma siete dentro il telefono. Vabbè, dai, questo non posso farci niente, non posso toccare niente. Ma c'è il banchetto? Giuseppe, io avanti. Ho tanto dubbio di permesso. Fotografato il passaggio di gioco. Ma vieni qua, adesso. Adesso si è aumentato. Anda bene meno? Va benissimo, grazie per qualche... Prego. Avanti. Roma, Domenico, guardia. Sono andato per pagare 41, fatta agliata, volarita. Va bene. Giallo, credo, giallo. Avvertito allora. Sì, ti ho mangiato, viaggio. Ma sono uno che mi chiama di mazza, ma dice che c'è un virus in giro. Ma di pancia, ma di qua, ti prende. Oh, virus, c'è virus in giro, c'è. Poi anche il tempo, ovvio. Chissà come l'hai installato, il virus. sì. Lo vedi, come ascolti a me. Ma dimmi una cosa per curiosità, ti stai aiutando o sei sempre il solito? Perché stai arrivando una bomba qua a me. Guarda, adesso sei Santiago 8 con picchi a 9, poco fa le 9 è pieno. Infatti ho detto, o è giornata favorevole oggi? Io, dai, sono entrato un attimino a salutarti domenica perché stavo sistemando qua un giocattolino, un baracchino che mi è arrivato stamattina. Comunque saluto a tutti, ciao Natalino, anche a te. A farsi la bassa un po' il microfono che sei troppo alto e ciao Falchetto, dai, continuate voi. E avete fatto questo torneo più impressionante, questo appariccio, vabbè. Sei adatta Natalino, ma sei troppo forte. Guarda, così penso, guarda. Ma se un secondino che attacco l'altro per di coso, per sentire il livello giusto. Ehi, non c'è bisogno, l'importante è che mi senti bene tu nelle orecchie. Tu Natalia. Ehi, non c'era bisogno. L'importante è che mi senti con le orecchie bene. Sono un braccio lungo e disteso, Sono per presidente Lincoln. Natalia sta amplificando un bel, ti sento anche tutti i rumori che c'è intorno. Prova, fammi vedere la modulazione, a vedere. Cos'è la tonalità? Guarda, adesso ho anche abbassato ulteriormente, guarda un po', 1, 2, 3, 4. No, se siete troppo alto, ma dimmi una cosa, si può passare dall'apparato il Mickey Gain? No, non è un Mickey Gain qua. Guarda, posso abbassare ancora così. Però adesso è a 2, adesso è a 2 questo Turner, guarda un po'. Sei ancora alto per i miei gusti, hai migliorato molto, però sei ancora alto. Cazzo, guarda. No, adesso sei troppo basso, solleva un po'. Vuol dire che vuole. Non è così, là. Prova a parlare un passaggio lungo, scandisci bene le parole. Eia, Roberto, mi senti bene? Non sto parlando neanche a voce alta, perché sennò già lo sai, io l'amplificatore ce l'ho in gola. Cappa. Adesso sono un po' bassino, solleva un po', ma ti sei molto allontanato dal microfono. Non sempre la solita distanza, Ho alzato ancora un po'. No, allora è stato troppo, ti sei avvicinato o ho alzato la tonalità, adesso sei troppo alto. Vabbè, tra il 2 e il 3 vuole allora, va? Così sei già abbastanza forte, Bruno. Dai, vabbè, proseguite che sto facendo cosa. Ti stavo dicendo, Natale, mi è arrivata che non c'eri poco fa. E l'Intec, un'altra stazione base, piccolo, più piccolo di quello che avevo, mi è arrivato. Però, l'unica cosa è che c'ha la connessione a 5 puli. Adesso l'ho aperto per togliermi il connettore, ma lo metto a 6 puli. Così ce li ho tutti uguali i microfoni. Ho capito. Anche questo ce l'ha a 5, questo... Lincoln, allora gli ho fatto una scatoletta con una prolunga per non cambiare le connessioni del timer, capito? E funziona così, gli ho fatto questa scatoletta con la, lo attacco lì praticamente, a questa scatoletta, una prolunga gli ho fatto. No, non voglio fare più prolunghe, sono più metto le scarpe, solo ve l'ho aperto, cazzo, questi valori hanno messo i fili, aspettami, 3 fili blu dello stesso colore, 2, uno rosa e uno giallo. E più ci hanno messo 2 condensatori di quelli a pastiglia, quelli piccoli a disco sulla cosa, no? Forse per il ritorno della radiofrequenza. Però ti posso dire, come si chiama? Natali, lei per questo di tuo bene, non è più tu questo baracchino. Sei casa. E io ce l'ho questa stazione base qua, ma è troppo grande, è ingombrante il Saturneco, capito? Troppo grossa, Io non questo figlio di nuta. No, questo è una via di mezzo, un po' più piccolo del 140, diciamo 140-440 di larghezza, e di profondità più o meno la metà, e di altezza un po' di meno, dai. È un baracchino e mezzo di larghezza e 2 alla 48 di altezza. No, per portarmelo al mare, mi serviva una cosa, come ho detto poco fa, che non voglio alimentatori, non voglio niente, c'ha un piccolo altopalantino qua davanti, che è una gaggata, magari se capita, se ne trovo qualcuno migliore glielo metto perché è uno schifo come ecco. Però già mi va bene per quello che serve a me, dai. Sì, capo, fai bene. Trovati un buon altopalante e glielo schiaffi dentro. A me c'è anche la presa dietro per l'altopalante esterno, ma adesso quello proviamo. Adesso mi voglio cambiare questa connessione e lo voglio provare con un microfono migliore, dai, perché il suo originale, ma così intende, maledetto. Ma adesso non sei con quello, perché ti sento benissimo io, No, no, adesso sono con un altro baracchino, un altro baracchino. Di buono che c'ha, l'ha preso delle cuffie davanti questo coso, lo sai? Meglio così, anche io ce l'ho nel Saturn, ecco, davanti l'ha presa delle cuffie. Poi la salino, ti compro una cosa, questo del Saturn a cosa serve, visto che non ha le barre laterali? Per regolare il tono in ricezione. Ogni ricezione, certo non cambiando, la trasmissione dice che cambiava qualcosa, mi ha detto Falchetto poco fa. No, mi sembra strano, il Saturn dovrebbe essere per cambiare il tono di ricezione, che io sappia, poi magari chissà cosa avranno fatto, non lo so. E poi c'ha il amplificatore dell'antenna pure, lo sai, e lo GRB, il filtratore GRB, e poi c'è il tasto eco, anche se non c'è la scheda eco, mi ha detto, comunque si può mettere, ho visto spazio c'è, a me non me l'ha fottuta, però teoricamente si può mettere anche il coso. E poi c'ha l'uscita per attaccarlo a 12 volt, si può mettere anche collegare in macchina, per dire uno che se lo vuol portare, c'è infatti l'attacco per la staffa, sarà un po' ingombrante. Quali di quei VHF marini, ce ne presente Natali che hanno l'altro palantino davanti, le tastierine, sembrano di ghisse. E poi c'ha il tasto della potenza, quello magari può essere interessante, no? Ehi K, vabbè, non problem, già andrà bene meda. Adesso lo vado con la GBC e mi prendo una spina a pannello a 6 pulli, glielo chiedo. E infatti, e così te la cambi. Allora, dai, scusate l'intromissione, proseguite Natalino, vi saluto, dai, io faccio correnti che sto facendo cosa. Ciao Natalino, ciao Falchetto e eventuali ascoltoni, che ci sia. Dai, vi faccio entrare a tutti quanti per vedere chi è rimasto. Ciao ciao. Ciao Romolo, correnti. Qua, così c'è scritto, e così eseguo. ti hanno scritto? Insomma, ci sarebbe scritto di mangiare frutta, cose del genere, che sì, cose così la notte, roba leggera, ma io questo mai non li mangio. Vabbè, ma che cosa in cattura devi pulire, non è che puoi stare senza mangiare, no? E vabbè, vedi tu da. Cappa, Natale, e tua dieta sì. Chitto. Io faccio un attimo di buona ictisi, che ho fatto la tua iniziale, e riprendo subito. Eiaia, va bene, Falchetto, no problem. Avanti di nuovo, Pierpaolo. Sono rientrato. Questa Natale siamo tutti a dieta, qua tu dieta stai facendo. Mi sto mangiando la fiesta. A bacia di galo un po'. Lasciateci dire, mangiamoci una fiesta, lasciateci dire che una non ci basta, lasciateci dire, fiesta snack. È proprio così. Sto aspettando che entri una su Messenger. E quella bisogna prenderla immediatamente. Sempre in luci. Ogna! Ah, allora ho capito bene. Vabbè, da Natale. Tu fai il Raus. Senza il Raus, questa volta rimane una settimana zoppa. Pagato. Deve pagare quelle che mi sono perso in questo tempo, ho capito. Sì, è un po' rado ti sta. Ma vediamo se entra. Ma è dalle 21, le 21 di già in ritardo, e oggi la sgrido. E dove l'ho rimarcata? Su Badu? Me l'ho portata per su Messenger, perché Badu non mi piace. È un server del cavolo. Viste così di Gianni, Cosa? Hai visto così di Gianni entrare su Badu? Cosa? Che non serve a nulla Badu. Parola, sputtato sul piatto che stava a mangiare, avanti per qua. Chi è che sta sputtando nel piatto? Prima. Ma io fai cosa, più tu è? Ha mangiato da Badu e adesso sta dicendo che non serve a nulla. E cosa è Badu? Ma è andato su Badu. Va. E ora non mi sono andato da io su Badu, no? www.badu.it e poi ti iscrivi. Ci sono quando cercano donne, cose, amicizie, eccetera, eccetera, ci sono fotografie, tu la chiami, mi dici se vuole chattare con te, eccetera, eccetera, è così. No, no, basta con le chat, basta. Sei stufo? Ti piace più chattare? No, no, il cazzo, già faccio tutto incrociato, ho 11 ricchi aperti, cazzo, figurati. E vabbè, sarà dodicesimo, non è meglio fare che dispa. No, no, no, poi basta, io cazzo lo puoi a rispondere, come? Non ti credere, ma su Badu ci sono donne difficili. Prima ti guardano tutto il profilo, tutto quanto che tu devi fare, e poi se li vai ti chiamano, se no... ma allora ci metto anche un profilo migliore. Abagala. Ma non vedo quel profilo, sai, tra quello che si innamorano subito. Foto di chi c'hai? Ah, la vuoi vedere? Quella del gatto. La vuoi vedere tu, il mio profilo migliore? No. A me i maschietti non mi piacciono, mi piacciono le femminucce. Cosa c'è, anche a me, tu hai il coglione di vedere il mio profilo. Non ci sto pensando, su non dire al Natalino che ci va. Manco io ci vado, se te lo sto dicendo che me lo porto su Messenger perché non lo fa, su Badu non fa. Comunque sono contento che te ne rimorchi a tu, ma... Cosa sto chiamando qua? Il telegramma gli ho tracciato a una, bene va. Che andiamo? Gara gara. Cazzo è... A proposito, Giuseppe è andato via. No, che sono brecco due volte. Posso? Vada! Succhi parliamo. Su che si urla, ragazzi, buonasera Mutirum, Vela, Natalino e Bombolo, sentiti bene, cordialità a tutti una stretta di mano, cacca e ricacca. E cara gara, ciao Giuseppe, ben entrato, mi si è rotato quel tamer a Lincoln, bene sta andando? Natalino è un bijou. Ma veramente un bijou, qui perlomeno nella mia modestissima postazione va troppo bene. Cara gara, ha giudicato. Ma scusate un secondo, ma io tra un break e l'altro ho sentito Badu, Bum Bum, MSL, Cicchiacca, Profili, Gianni. Qual era il profilo che volevi guardare tu di Pierpaolo, sporcaccione? No, di Pierpaolo ho rifiutato, ho detto che a me piacciono le femminucce, non i maschietti. L'ho rifiutato, l'ho rilanciato a Natalino, ma dice che anche lui non interessa, quindi adesso lo rilanciamo a te. Pierpaolo, tu naturalmente smentisci questa diceria, vero? Giuseppe, buonasera. No, lui ha detto che in questo ballo bisognava mettere il profilo migliore, perché sono i costi difficili. Io ho detto, io posso fare la fotografia del mio profilo migliore. Stop, non ho detto altro. Capami positivo, quello che posso confermare anch'io, perché io stavo ascoltando e questo l'ho ascoltato benissimo. Proprio il migliore, però non ha specificato, dico bene. Capa è positivo. Il profilo migliore si può trovare da tutte le parti, per esempio prendendo bene una foto dal profilo si può vedere il naso quanto è lungo. Ma io conoscendo Pierpaolo dei bussini già dei sacrifici pedonali, c'è che il profilo migliore la vince. E conoscendo Pierpaolo i bussini già dei sacrifici pedonali, ma i bussini non si arrivano per gli altri sacrifici pedonali. Gappa gappa Natalino, ma ci è riuscito, dirmi a me che sono il suo segretario. Così è, ma il capitolo non è entrato. No, non l'ho sentito. Ah, no, perché la sera entra sempre, vabbè, la sarà mangiando ancora. Cappa cappa. E allora ragazzi, che si dice? Giuseppe, come è andato il viaggio a Cagliari? Oh, lasciami tranquillo Gianna, va bene che oggi è lunedì, però o l'hanno allungata quella strada, oggi era più lunga del solito. Cappa cappa, vabbè, già è sempre lunga. Lo so già, però non lo so, stamattina proprio non riuscivo a carburare bene, ero un po', forse ero appena sottotono come cosa, mi sono alzato che erano le 5:15 e sembrava tutto ok. Come sono uscito di casa già senza avermi fatto niente, nessuno, avevo già le balle girate, non chiedermi perché me l'ho chiesto, basta stare a Cagliari e non mi sono dato una risposta da solo. Cappa cappa, e lì ci voleva carburo, così ti faceva carburare un po'. Ma qualcuno già l'ho trovato strada facendo. Ah, a proposito, vi saluta di nuovo, l'ho beccato lì verso Bonorva rientrando, mi ha tirato una sprecciatina, perché io me la stavo prendendo abbastanza con me comodo rientrando, e niente, abbiamo fatto un pezzo di strada assieme, poi lui ha girato per Chiesi, dice aveva uno scarico lì e via. Falchetto, vieni che vuoi fuori. Ok. No, non è lui, no. Chi è con questa sirena? Cosa ne so? Non sto guardando manco il segnale, anche perché non lo vedo, che la parte ce l'ho sopra, io sono giù, quindi non lo vedo. Che cosa non vedi? Pignal. Ah, ecco qua. Perché per la tattura ti ha mezzo coperto, cioè ti ha mezzo, ti ha schiacciato, e quindi non l'ho seguito. Pagato. Tu non lo fai da bravo. No, ho detto che io ho capito chi è, ma non lo dico. Ma non ci interessa a me chi è chi non è. tanto non ci dà fastidio. E poi ne ha due lì, ne ha due, una è pietonale e l'altra è dell'ambulanza. Su che andiamo, che mi sta morendo in barella, su che andiamo. Mettete te due a 10 e di ecco a voi Antonio. Sì, no. Aspetta appena, fammi girare il macrofono. Giuseppe! Avanti della 1. Qua fai tu adesso, giri il microfono e guarda le rotelle, no? Quella di destra la porti a 10, sì. E l'altra di sinistra la porti tutta a sinistra e parla. Allora, leggo Belai e lo porto tutta a 10. Porta una a 10, quella di destra a 10, quella di sinistra. Tu ti giri il microfono, te lo metti davanti così, no? Quella del braccio destro la porti a 10 e quella di sinistra a 0. Va bene così? Non è successo niente, come mai? A 10 l'hai portata. Papà. No, parla, scusa, Allora, io ho girato il microfono e quella che mi trovo sulla mia destra l'ho portata a 10 e l'altra è a 0. C'ho cazzo l'amplificazione. Aspetta, prova a invertire. Adesso ho invertito. Ecco, voi, questo robot, adesso si è robotizzato. Parla. E ecco a voi lo shuttle che chiede contatto con la terra, K per il K, no più room, a Bisese. E ha bisogno di oggi. Uffo, bai. Bai, così, che uffo robora. Signore, signori, signori, signori, signori. Lo shuttle in linea, Soppia. Che? Andiamo. Mi piace questa L'unica cosa che è che delle volte, se non stai attento come lo riappendi su nell'appendino del camion, si sposta un attimino la rotellina della cosa, no, dell'eco, e delle volte mi chiedono di abbassarlo tutto lì. Vabbè, quello succede, però come cavo, come non viene, non ce n'è altro così. Ah guarda, come cavo è bellissimo, bello morbido, e l'ho sempre sognato io un cavo così, è veramente comodo. Sì, molto maleabile col microfono. Matta lì. Chiuse, aspetta un attimo, matta lì, chiuse. Avanti Pierpaolo. Questo è lo stesso box come quello, solo che non è amplificato. Ma sta uscendo bene lo stesso, mi Pierpa. È il boxer, la stessa marca di quello, solo che non è amplificato, capito? Avanti, la taglio. Scusate, sto facendo cosa bianco per me, là. Ma riprendi Giuseppe. Io adesso mi devo, diciamo, accontentare, tra virgolette, perché ripierrappa, da quando ho iniziato Pierpa, ho fatto passi da gigante per riuscire a mettermi, non dico al passo, ma dietro, per riuscire a sentirvi e riuscire a farmi sentire un attimino. Però appena mi rimetto un attimino a posto, Pierpa, ti dico che un altro di questi me lo prendo e guarda, ne può cascare il mondo e non me ne frega niente. E poi un bel coso, un bel trasformatore bello potente che mi dia forza qui in questa stazioncina, e io sono a posto, Pierpa, non ci metto manco 5 lire più. Guarda, poi non te l'ho detto di prenderlo, non l'ho preso quel microfono. Fai una spesa unica, prendi quello a 30 per switching, ne prendi uno e boh, il costo è massimo. E perché tanto se prendi gli altri che hanno molti ampere, il costo è superante, e questo switching è piccolino, e poi lo puoi mettere così in base e ti dà la stessa cosa. Ma io ho visto uno di questi switching con i cosi, addirittura hanno anche i cosi, aiutami a dire, i cosi come il rosmetro, le lancette. Gli strumenti. Bravo, gli strumenti. E quanti ampere sono quelli? Quello che ho io è 30 ampere, 28 o 30, va. Scusate. 30 ampere. Vanno benissimo, quello da 30 ampere, io consiglio di prendere quello da 30 ampere, vanno benissimo. A parte c'hanno lo strumento illuminati, quello dei infatti, dei morsi, e l'altro c'hanno l'amperometro, e sono benissimo, ce l'ho così. Cosa è successo? Sono Brienne, Emanuele con Marco, perché gli sta togliendo la PlayStation, dice che ha detto cose che non deve dire, e gli sta togliendo la PlayStation. Io sono venuto qua, lui non è un genitore, non mi deve dare queste punizioni. Mamma mia, sempre attaccato, insomma. Chi sta vincendo? Manuela, quando si impone, per dire, non raccoglie la roba dalla cameretta, perché se no la madre poi dice cosa anche a lì, se vede Marcello, allora dice, non raccoglie la roba dalla cameretta, ti sta con la PlayStation, subito le raccoglie. C'è Falchetto, che Falchetto? Falchetto ha fatto bianco per andare a mangiare. Ecco, allora c'è Giuseppe, Giuseppe qui. Sì, mi avete proprio anticipato con il brecco e niente, me ne è entrato qui in camera Fantasmino Show, alias Veronica, per la buonanotte. Un secondo solo, vi rubo solo 2 secondi. Ciao amore, ciao, buonanotte, vero? Ciao sciocca! Ciao piccolina! Ciao, buonanotte! Ok, mi sta facendo ciao con la mano a tutti! Se no non riesce a prendere il sonno, mi ha detto, è uscita a dare il bacetto a me, dico tanto per arruffianarsi un pochino, perché poi voglio andare dentro a vedere cosa ha combinato, perché Veronica quando esce mi dice, lo sai che tu sei il mio amore? ma... Luciana, c'è qualcosa che non mi convince. Avanti Pierpa, riprendi tu per un secondo, che tra Veronica e il computer mi sto incasinando. Un secondo solo. Cava, cava. Scusa, Gianni. Sì. Ma come stai usando tu adesso? Il microfono normale, vero? Eia. No, ma quello... l'originale? Ah, ma l'originale dell'apparecchio. Ti voglio anche sapere comunque. Mi hanno detto che è cupa la radio, che è un bel cupa, che fa schifo. Sì, Mi hanno detto che fa schifo. E vabbè, là. Diciamo che è una cosa provvisoria, poi io metterò un amplificato. Ah, vabbè, se si parla di amplificato, si parla di amplificato. Se si parla di microfono normale, bisogna accettare quello che è, no? Però non è male. Giuseppe, l'hai salutata Veronica? K di positivo, vi ha salutato con le dittina, era così che muoveva le dita facendovi ciao a tutti. Marcolino adesso fra poco viene a letto, se non ci sono io non dorme. Veronica già entra, dice che va a fare la nanna lì, no, però non va a fare la nanna, e si mette yo-yo dentro quella televisione dove danno tutti i cartoni animati, no, e poi niente, sta sempre, mi chiama, dai fai un attimino che conta sino a 10, che giochiamo a nascondino, io conto sino a 10, lei si nasconde sotto le coperte, no, e io sto 10 minuti cercando di trovarla, anche se poi vedi quelle coperte che si muovono dall'alto al basso, quindi figurati se non la becco al primo colpo, però per me poi non c'è gusto così già. Eh beh, certo, bisogna far vedere che la cerchi, è normale. Così lo facevo anche Titti, lo sai, il mio gatto, praticamente quando Manuela andava a letto, lui cosa faceva? Se ne andava sotto le coperte e si metteva in mezzo alle gambe di Manuela lì, tra i piedi e cose, si faceva praticamente la forma delle gambe. Quando mia moglie andava a cercarlo in cucina non lo trovava, dove è Titi? Dove è Titi? Andava dritto dritto nel letto di Manuela e lo toccava e gli faceva miau, come di sgamato mi hai. Ma guarda, i gatti sono a me piacciono, perché i gatti ti tolgono tante di quelle soddisfazioni perché sono un bel giocherilloni. Allora, vabbè, sono anche autonomi tra l'altro, non è che hai bisogno di andare a portare, a fare. Sono molto autonomi, poi ti tira anche coccolone come gatto, gli piace essere coccolato. Infatti ho visto come tocco anche quelli di Natalino, che sono gatti che stanno fuori e coso, e non è che siano molto turistici, e tu le si fanno toccare. Cappa, ma io guarda, ho già col coso del cane, basta, cioè 14 anni avevamo Kira ed è stato, ti dico la verità, un colpo troppo grande per noi. E non me la sento di mettermi in casa altri animali, perché guarda, sono io quello che ho passato la notte nell'ambulatorio veterinario lì di via Pascoli, tutto lì. Lo so, anch'io mi servo lì, lo sai. Lo so, sono bravi, tutto quello che vuoi, però no. Guarda, io mai potevo immaginare di reagire così, perché in effetti anche quelli poi ci sono rimasti un attimino così, cioè sai, poi sai, sotto le feste, proprio il 23 di dicembre, ma è stato come un fulmine a ciel sereno. E niente, talmente ci siamo affezionati a quelle cannelliti, ripeto, non per essere egoista, però non ne prendo più giù. Ma invece era diverso, e l'unica cosa da fare per soffrire di meno è averne un altro e dare l'affetto all'altro, e magari ci soffri di meno su quello che è morto, da titto, e così si fa. Vedi, per poi per dire, gli avevo regalato un gatto io, e purtroppo è morto, e se ne hanno preso subito un altro, anche perché la madre ci stava soffrendo, perché stava sempre con la madre. Lo so, ma non... io sinceramente non me la sono sentita già, ti dico la verità e Dio mio caro, non riprendere poi di riaffezioni e devi stare, che poi come tira sono sicuro che qui dentro non entrerà mai nessun altro cane, perché a quel cane lì ne mancava solo la parola. Allora, vabbè, e cosa aveva? Purtroppo. Io ti dico la verità, ce l'avevo un cane, si chiamava Chicca, aveva una cuccia più grande di lui, ne avevo fatto la cuccia dalle scatolate di un motore di un frigo che era arrivato, e ho fatto la parte di davanti fatta dal falegname con la forma della porticina, no? Lui entrava dentro, c'erano tutti quei cuscini che si mettono sulle sedie come imbottitura dentro, le coperte, tutto qua. E purtroppo, quando è nata la nuera, un giorno mia moglie l'ha trovata dentro la culla che la stava leccando, da lì non l'ha più voluto, anche se lì ci ha sofferto più di me, però da lì non ha sopportato, lui lo faceva per protezione, però non andava bene, era piccolina piccolina e non ci ha visto più. E poi si è messa anche mia suocera che i cani in casa non andavano bene, che c'era la bambina piccola, che qua, che là, sino a quando l'abbiamo fatta mio cognato l'abbiamo portato in campagna. Però tu devi sapere una cosa, mio cognato aveva la campagna nella nuvola e ogni notte andavamo a portare da mangiare di nascosto. E diciamo che piangevamo come bambini. Lo so, ho già, ma boh, io per me per il momento va bene così perché no. E, cioè il coso c'è ancora e mi dispiace e tutto quello che vuoi, però non me la sento, cioè morta Kira, di portarmene subito un'altra dentro, perché mi sembra quasi che stia mancando di rispetto a quella cagnetta lì, perché ti ripeto, 14 anni lì già, non due giorni, dai. Comunque, facciamo girare prima che mi rimetta a piangere, dai, riprendi pietà. Capo. Anche noi abbiamo preso la delusione, ma purtroppo sono cose che accadono. È morta in una maniera che non ce lo saremmo mai aspettato, così. E un altro che è andata. Però abbiamo recuperato, abbiamo preso una che è un'altra era buona, e questa è buona. Già, peggio di lì, Marco Miagola. Questa per tirarle un soffio di miagolio bisogna farle vedere una scatoletta e caccia fuori qualche miagolio così, ma leggero. E allora anche lì non mi aggolava mai, così è questa. Non so se è stata la scelta giusta. Cattolotta. Ma grande adesso, per pa, grandezza si fa. No, è figo, ha fatto 3 mesi. E vedi, ne hai da godertela quella lì, caspita, io Titti c'ha già 15 anni, 15 anni c'ha Titti. E ormai ci ha preso già tutto il coso di casa, le abitudini, e mangia e dorme, vedi, adesso era con noi, è seduta quando siamo arrivati, ci ha fatto i suoi giochetti e cose. Se ne tratta dentro e li ha presi. Allora, è curata, vuole la pace o la lascia? E il latte, a ne dai per fa? Ma lo sai che non è ancora nato, comunque è sanissimo, ha fatto tutto già. Eh? Cappa. Un via Pasqua viene fa? No, sempre là. Sempre a lunedì solo? Ehi, cappa, mi viene male lì. Cappa. E vabbè, uno vuole l'altro, dai. Cosa gli hanno fatto anche l'analisi delle feci? Tutto. Dove tutte le facevano fare all'inizio? Comunque se il latte glielo dà, non glielo dare dal frigorifero, mi dà glielo temperatura ambiente. Lui sì, lo beve ancora il latte, se glielo do la mattina a colazione. Ma ci proverò, non glielo ho dato mai, anzi glielo ho dato il primo giorno che è arrivato a bottiglia, poi non glielo ho dato più. Però sono piccoli così, ogni tanto bisogna darglielo. E poi se vuoi fare una cosa ben fatta in mezzo al mangime, praticamente riapri un uovo, metti lì l'albume e il porro glielo sbatti in mezzo alla carne, alla cosa, glielo metti per dare sostanza. Ecco, però ma in un mese che ce l'abbiamo è cresciuto abbastanza, probabilmente anche un gatto di testa grande, perché se prendeva da in un mese quando abbiamo preso noi era un po', cioè a parte che quando l'abbiamo presa è stata lavata dal coso degli animali, come ti richiama, da quella che li lavano, però era magra, era capito, ma lui la mandolina, che la prima volta era c'è questa mangia a casa, ci muoveva, si mangiava veramente la naturetta. Ma cos'è, a pelo lungo? No, cioè, a pelo corto, però c'è il pelo lucido. A me piace, a me piace parecchio, qualcuno non piace perché è nera, ma a me sì. E tua figlia, che piaciuta lì? A lei piace, allora, a lei piacciono tutti, con una distinzione. Infatti quando gli ho detto per telefono, ho detto bene, perché che cosa c'ha? È bellissimo il gatto mio. Allora mi chiedo se mi dice, mamma mia. Cappa, cappa. E quando viene il suo cocco a tutto, lei si gira, tanto di mano a carezzare. Quando hanno a dire che ti dia fastidio, di solito i gattini sono un po'... Qui, quando prende a giocare, corrono da una parte all'altra, ma non è che ti dia più fastidio più di tanto. Però poi si ferma, si addormenta, tranquillo, non è quei gatti. Invece noi avevamo avuto un piccolino, da piccolo era un terremoto, e poi stava sempre miagolando, questo non riesce un tucchio. Sì, probabilmente abituato in casa. Io adesso c'ha tutti i suoi giochini, le sue cose, i bambolotti pure già, che gli tirano la pancia all'altra, si yoga, e va, da che si stracca, si accomodeggia, si dorme, si va da dritti dormiti già, cazzo, veramente un mandano dormita. Ancora quando sono piccoli dormono così come i bambini piccoli, no? Dormono molto. E prova a farlo giocare con il laccio, con uno spago, una cosa, c'era un triuga. Sì, adesso sono a trovarlo. Quando siamo in telepissini, lui ha, dopo vedere tutto il movimento di lacci, di elastico, di cose così, pupazzetti, vedi, e se no c'ha le palline proprio quelle alate, quelle morbide che ho preso da quello degli animali, che rotoleggiano da una parte all'altra, quando li tiri rotoleggiano la parete o da una parte all'altra. Quello lì come c'è la frenaggio. Adesso anche Titi lo faceva. Titi lo sai cosa faceva da piccolino? Mi slacciava le scarpe, i lacci delle scarpe, mi tirava i lacci quando camminavo. E questo slaccia anche le cuscini, le viste di cuscini, delle sedie che ci sono in caccia, i lacci di sotto, che ogni tanto prende, si fa il giro di tutti, li slaccia tutti. Se lo tornavo io, quanto la lacciava. E vabbè, quando prende a giocare, cioè se uno brinca, poi la sua passione, c'è la sua passione, già, mamma mia, tutto il santo giorno che si scende, c'è la donna a rompere il cantraito. Sì, all'uccellino, no, sempre con l'uccellino ce l'ha. Adesso glielo abbiamo messo più in alto, ma non è la madria, si appiccava la gabbia, cacciava sopra, e cava sopra puntata, e andate in quella zampata, dove vai qua? C'era. E con il pappagallo da molto ce l'hai per un paio di anni, no? Da 2001. Cioè, è diventato anzianotto. Da 2001 c'ha 9 anni. Agatto. Ma sempre solitario così? Sempre solitario lui, sempre solitario. 5 stanno tutto il giorno, tranquillo. Campa gatto. Se li mangi, Giuseppe, si ammazza qua le donne, quando delle femmine, quando delle mentele. Lo so, anche noi abbiamo avuto un verdone. Un verdone ce l'abbiamo avuto tantissimi anni. E questo quando gli mettevi qualche cosa vicino, base si rimagnava. E io, sai quanto ne ho avuto verdoni, cardellini, canarini, a casa di mamma andavamo a rischiare, là, poi qualcuno si rovinava anche, dove tirare le piume perché le penne perché si attaccavano le ali e non faceva tutto, ero manco con lui, non ne usciva. E allora ti toccava tirare le piume e poi li ricresceva e diventavano belli. Andavamo a rischiare qualche volta con gli amici e coso, li prendevamo, quando li beccavamo subito, che li vedevamo subito attaccandosi, li toglievamo subito lì con l'olio, però se muovevano le ali per scappare si attaccavano al tronco e facevano un casino nero. Oh Gianni, se entra qualcuno gli metto questa, senti un secondo. Di Dario Argento. Questi sono gli altoparlanti dei computer. Mannaggia, non è entrato però, anche se ci ha raccomandato di fare la bravi, non dimentichiamocene già. Vedi, mamma mia! È bella. Profondo rosso, là. Aspetta appena. Sempre il suo fascino comunque. Io c'ho tutti i film, lo sai dalle ragioni. Cappa, io tutte le musiche quando termino di modulare ho il computer vicino, metto cuffie e alla grande. Nella di Dario Argento non so se la conoscete, tu Germani conosci Dario Argento? Sì, la conosco qualcuno, sì. Senti questa che metto adesso se la conosci? Ecco, pure tutta la chiesa la devo stare accanto, a ringraziare Giuseppe. anch'io, guarda, sono mezzo a dieta e niente, la farò questo piccolo sforzo, vai, senza dire niente a Lella, perché sennò quella mi si incazza. Un piccolo sforzo, sarà male, sto puro, E allora io, lo sai cosa devo fare per addolcirla? Fammi sentire questa canzone, senti? Siete pulita la musica con quel microfono. Bella, vero? Proprio pulita, sembra ascoltata dalla stella. Diciamo che sono anche dei buoni altoparlanti questi che ho nel computer, perché molte volte uso più questo che lo stereo qui a casa. Lo stereo non serve più, adesso il computer fa di tutto, qualsiasi canzone tu vuoi ascoltare te la puoi ascoltare lì col computer tranquillamente, senza avere mille cose. Guarda che ne ha sostituito un computer di cose. Io sono amante dei revival, non so se a voi piace, anni 60, 70, ma ne ho a kilobyte qui dentro. A me piace la musica anni 60, la discoteca. Mamma mia, è la miglior musica che sia esistita da quando sono vivo. La musica degli anni 60, si può paragonare a chissà di Avanno. Fino allo sciacquone. Ma degli anni 60, fa via via e basta. No, 60, 80, tutti quegli anni lì erano benissime musiche. Ma sempre la discoteca? Sì. Oh, ne ho di quelle, ne ho, però mamma mia, gli esordini sono ad esempio quelle belle rilassanti, tipo Al lume del sole, Il giardino dei semplici, che tutte quelle storie lì, Te le spiace chi è dentro, I camaleonti, L'equipo 84, Te le spiace chi in cuffia, guarda, perlomeno io parlo per me, perché i gusti, Dio mio, bisogna rispettare quelli di tutti, però ti sembra di ritornare ragazzino. L'ha conosciuta già? Sì, Luigi Gomez, Santa Esmeralda. Senti, Don't let me be the Sunday Stew. Niente, Don't let me be the Sunday Stew. C'è la merda. Dici sì che era dei canzoni. Una o due marcette mi ho ballato con quella lì. Giuse. Avanti, via il pa. Ma se conosci questa donna sonora. Faccia di Trudda. Chi è faccia di Trudda alla grande? Chi sei faccia di Trudda? Vediamo un po', a proposito di Santa Esmeralda, io dovrei avere qualcosa qui, la sto cercando, un attimo solo. Giuseppe, in America ti piacciono? Tutto mi piace a me. Un giorno vieni a casa e ti faccio sentire un po' di musica degli anni 80, 60, tutta quella che vuoi, tutti i dischi. K, e io anche qualcosa degli Aerosmith, li conosci? K. Bello, Comunque gli America li adoro, a me piacciono tantissimo gli America, è una musica bellissima, rilassante, bella. Mi piace anche Kim and the Cadillac, non so se tu te li ricordi. Quelli che facevano non stop music. I capi li hanno fatto, Kim and the Cadillac hanno fatto anche molto twisted, quella lì l'hanno fatta loro. Con la Nostop Music lo usavo come tappetino musicale quando lavoravo. quei dischi lì vado a comprare apposta ai mercatini, nel mercatino dell'usato, mi trovo già lo sanno perché ne ho comprato anche quando ero con loro. Da fanno l'ultima settimana del mese, in piazza Santa Caterina e in piazza Tola, si dividono, prima era tutto in piazza Alessini, c'erano anche le moto d'epoca, un sacco di roba, baracchini, radio amatoriale, di tutto. E allora bisogna farci un salto. Ma quella roba lì l'ho vista un paio di volte, però non l'ho più vista, invece avevano uno stock. Ti ho chiesto se funzionava, mi ha detto che non lo sapevo, la pila di energia, quanto era questo apparato. E mi ha detto, guardi, glielo posso fare 300 euro. 300 euro, ho detto, beh, funzionante, questo non lo so, e allora te ne dico. Cava, adesso faccio sentire una cosa a Pierpaolo, eccola qui, che sicuramente lo riporterà indietro di tanti anni. E a me mi ricorda quando ero ragazzino qui al monte. Dietro di noi, anche lui nato per caso e viaggio in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai. Giocare con me. Bella. Un giorno disse, io vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Attenzione, attenzione, 21. Hanno annunciato temporali fortissimi fra mezz'ora. Ma dove? Su dalle parti di Via Valle d'Alba? Passo, lì nel passo, eh. Attenzione, attenzione, già lì. Eia, qua si stacca tutto fra poco, là. Attenzione ai temporali, eh. È bella la musica, quella musica lì è bella, piace anche a me. Poi c'erano, aspetta, come si chiamavano quelli lì? Gli Abba. Quelli ce li ho, gli Abba ne ho a quanto ne vuoi degli Abba, o anche un MP3. E perché di DJ Jackson, te ne sei dimenticato? Automatic Love. Giuseppe, in mezzo a QRL riesco a tirarlo fuori anch'io. Ciao Alex, ben sentito e ben trovato. Ah, KK. Come mai non stai scendendo con l'antenna di casa, Alex? Io ce l'ho un'antenna del portatile che spara bene dalla vettura, però che fa parte del mio portatile, ma già che ti ci vuoi. No, a sacro cuore. Kappa, via. Vabbè, dai, è un esperimento nuovo. Allora Alex, per farvelo sapere, ha messo l'antennino di gomma del portatile sulla macchina. Ehi, lì sono riuscito a copiarlo anch'io. Ma e come mai questo esperimento? Ogni tanto Alex si inventa qualcosa, va. Vuole scoprire qualcosa di nuovo. Vai, vai tranquillo, poi riprendi da casa, almeno ti sentiamo bene. Da casa Alex c'è una bomba, mi... Oh, Giuseppe. E che sto facendo la macchina, una prova così, c'è l'antenna. C'è l'antenna. La mantova lui. Cappa di positivo, ne sono più che certo, ma non l'ho mai sentito io questo ragazzo qua. Ma stava entrando un po' ultimamente, ma già... Già entra. Permesso. Avanti. Buonasera. A tutta la frequenza. Mi sentito, avanti. Ho detto buonasera a tutta la frequenza. Bene, brutti, io saluto a tutti. Kappa. Avanti Giuseppe. Kappa di positivo Mario. Ben entrato, ben sentito e cordialità da parte mia. Avanti Verallo. Kappa, ciao Mario, ben sentito. Ciao Mario, ben sentito anche da parte mia. Io, interrogativo, ma che microfono sto usando? Il 60. Dove c'è 60? È bassino, boh. Come è bassino? Boh, per essere l'MC60 mi sembra basso, sono un basso di volume, boh. Va bene, cosa vuoi che ti insurdi? Attacco l'altro? Ma, ieri ho sentito bene, ti hai venduto il Galaxy. Stavo scherzando. Ah, gappa, no, ma che mi è sembrato di averti sentito che te l'avevi venduto? Dai, sto scherzando. Kappa, anda bene, gira la ruota, avanti che tocca. Io compro una vocale. Kappa, Giuseppe. Quanti bombo. Ah, vuoi sapere cosa ascolto io? Adesso te lo faccio sentire, mo Antonio, dai. Aspetta che te lo collego. Vasco Rossi. Ma senti... Che musica! Cos'è la zanzara? Ma non è che per caso erano di Purple? Già. A buon intenditore poche parole di... Bombolo, tranquillo, guarda, li conosco, sono stati il mio idolo quelli. Di Purple in rock? Per la scorossi, bollicine. Come si chiama, le ACDC? E ce n'è tanta di bella musica in giro, mannaggia. È la musica delle ACDC, ti piaceva, Giuseppe? Ma era troppo forte. Quella lì mi cantava come il Valdeagurro in macchina. La bocca, questo è il mio idolo. Aspetta, ne sto cercando una. Vediamo un po' se riesco a beccarla, Oggi Mario c'è musica, se tu non l'avessi fatto ascolto. hai già sentito la poc'anzi. Comunque, canzoni belle, come 60, 70, 80, non ne hanno più fatto. Adesso è tutto garraggio. Tanto è vero che stanno ricopiando e rifacendo tutte le canzoni di Battista Mogollo e via dicendo. Le stanno tutte quante rifacendo, va? Non hanno nulla a che vedere con le originali. K di positiva, ma non ne comprende di nulla. Ma perfettamente d'accordo con te Mario, 70-80 è stato il modus ultra della musica italiana. Io ho le più originali di Lucio Battisti, di Coso, di Battiato. Battiato mi piace da morire. E niente stai dicendo perché di Battiato. Mi piace dal padrone, non perché mi è piaciuto di più. Bella, e perché cosa? Phil Collins da buttare? No, vabbè, io sto parlando di italiano, Phil Collins è un grandissimo cantante. E ce ne sono tanti, di gruppi, di coso, i collage, li ascoltavo. Giuseppe. Avanti Pierpaolo. Io ho la registrazione originale di Gianni mentre canta Battiato. Ma sei bastardo, dai. Ti ricordo che qui a Sassa mi ha già invitato. Grazie, grazie, grazie per il complimento. Gianni, che lo sono io, Sì, sì, tu e tutto il mondo intero. No, no, che lo sono io. Massimiliano non vi dà. Battiato, no. Oh, gliel'hai mandata tu, bastardo, beh. No, ma il pezzo originale no, c'è un pezzettino, ce n'è appena appena. Non la mandi, non la trova. È la PFL però, a chi la stiamo lasciando, signori? Prendete a Foneria Marconi? No, ma in quel tempo lì c'erano i Beatles, c'erano i Led Zeppelin, c'erano i Rolling Stone, c'erano... cos'è che non c'era come musica? Ma a me era la musica bella. Alla fase di tutti gli altri blues, buoni da bosi, danno due strilli e per loro è musica. Sì, e poi tutto, non c'è il ritmo, boh, ma lui ballavi Santa Esmeralda, per dire, ballavi la marcetta, c'erano canzoni che si erano indicate per certi tipi di ballo, va. A me? Sì. Non vuoi sentire se ero io live? Sta a vedere. Non la mandi questa musica di Battiato. Tanto non si sente bene quel coro, e poi non fai una portata lunga con quel baracchino. A te non si sente bene, Antu, non ti offendere, ma sente meglio quello di Giuseppe. Pagava. Pierpa, non è buoni, non è ciappandabile, ti sei cancellata, manco male. E cosa mi sei cancellata, dimmi? Canzone di Battiato. Sento la bandiera bianca. Ma scusate, anch'io ce l'ho qui il karaoke nel computer. però guarda, la mia passione, ti ripeto, è la musica, e non volermene, se te lo ripeto, però 60, 70 e 80, ne ho da buttare, una per me, ripeto, una più bella dell'altra, e da Zucchero, ti ripeto, ad Albano, alla Belle Époque, ve la ricordate la Belle Époque? Aspetta un secondo, dimmi se ti ricordi questa. Allora, non me la ricordo. Quanto è stata ballata questa di canzone? Giuse, questa è la notte di Natale, senti un pochettino. Fatti di Antonio. Ah, Cafalchetto cantando, tu senti che sembrava coso, come si chiama quel cantante lirico? Valuto. Il Pavarotto sembrava. Tessuto, che sono stati un bel poco nei jukebox, ma no, è subito tramontato Mario Tessuto, all'incontrario dei Dicchi Dicchi, all'incontrario dell'Equipe 84, al contrario dei Nomadi, che hanno sempre fatto e hanno fatto sempre bella musica e belle canzoni. Mario Tessuto è stato in vigore, mi sembra, 2 o 3 anni, e poi è sparito. Anche Don Bacchi ha segnato un'epoca, eh? E vabbè, Don Bacchi, in quel periodo c'era pure Coso, che lui era brutto, mi aspetta, che non mi ricordo come si chiama, a Napoli. Però ha fatto un po' di musica bella, molto romantica e via dicendo, ah, però adesso non mi viene il nome. E come mi pare? Lo sarà il mandolo. Gioco Gabber. Gioco Gabber. Appaga, poi vedi, mi gioco giù poi. Come c'è il cantone napoletano romantica? Ma qua il cantone napoletano. Cantone napoletane. Un poco belline che gli ha fatte Coso a Napoli, ma quello che aveva fatto pure un paio di film napoletani a Napoli, aiutatemi a dirlo, Mario Merola, Cappa di Positivo, quello che aveva una bella voce mediulica, niente, quelle lì mi piacevano, per esempio cantando napoletano Coso a me non mi piace, Nino D'Angelo a me non mi piace, e neanche Coso, anche se napoletano, Rosa parte Massimo Ranieri lo stesso, quando canta napoletano non mi piace. No, Massimo Ranieri, tanto di cappello, Mario, non puoi dirlo. Massimo Ranieri ha una voce di... che è allucinante, ha una bellissima voce e canta anche con sentimento, io pure lo vedo un buon cantante. Sì, sono un buon cantante cantando canzoni in italiano e cose mi piace, però cantando napoletano non mi piace, chissà fa cosa. E l'Alessio ti piace? L'Alessio sì. La Sant'Angelo. Quello non l'ho mai sentita. Tu dici sono andata a vedere Laura Pausini a Olbia. E ti ha fatto uno spettacolo a Jenzi di Friga, mamma mia. E mio figlio ci doveva andare, poi invece all'ultimo momento hanno deciso di non andarci, tappa di positivo. No, comunque, diciamo che nella nostra epoca noi andavamo nelle salette, perlomeno il più che frequentavamo erano le salette, poi andavamo a ballare un po' dappertutto, dappertutto, a Russia, a Prague, a Oslo, a Sussu, a Portatore non ci sono mai andato. Sì, io sì, al Club 24, dove adesso abbiamo un negozio nuovo. Al Ghero, alla Mandragola, a Ciao Ciao, poi alla Stalla, poi cos'altro c'era? C'è il Ruscello che c'è ancora, poi c'era quell'altra salendo verso cosa, pigliare la strada per Borgia e poi girando per Villanova, che adesso non mi viene il nome, mannaggia la miseria. Mampea, vuole un Rusci. A Mampea, al Grisblu, lo sai dove era il Grisblu? Andavo al Moulin Rusci. E io andavo più spesso al Coso, al Grisblu, nel lungomare, che c'era la terrazza poi proprio sul Coso e si stava bene. Poi Ciao Ciao era dove c'era la fermata di Puma nei giardini. Entravi lì al centro proprio, entravi lì, c'era tutto sotto di un palazzo, tutto fatto a discoteca, era bellissimo. Poi c'era quell'altro vicino a Maria Pia, che lì si ballava molto in estate, però andando verso Fertilia. Cappa, ho capito qual è. Ma il Ghero non è che ci abbia frequentato molto molto la vita, qualche volta già ci sono andato, ma no, più andavo, io ero proprio abbonato a Proaghe perché ci avevamo fatto la grefa con gente di Proaghe, ragazze di Proaghe, eccetera eccetera, andavamo lì. E poi andavo a Russi qualche volta, alla Scala Ruia, all'aeroporto 84 sono andato qualche volta lì, a Scala Ruia però andavo di più. No, io dove frequentavo molto era Oslo, che c'era quel periodo che non si poteva viaggiare in macchina, non so se tu te ne ricordi, che c'erano i pullman che andavano alla discoteca. Non mi ricordo questo particolare, ma mi ricordo che ha avuto uno shock a Oslo, ci sono tutto avanti con la discoteca, come si chiamava? Il Messico, una cosa del genere, come si chiama? Non me lo ricordo, era l'entrata di Oslo lì dove c'è la banca adesso. Quello lì era il Poevo e poi c'era il cinema, lo Splendore che rimaneva dietro, dovevi scendere un pochettino giù, quando arrivavi al bar che c'era lì all'ingresso di Oslo, diciamo così, proprio di fronte, salivi in quella salettina e arrivavi al collo, allo Splendore, e io facevo da un coso all'altro, e niente, perché allo Splendore suonavano molto i Bertas, non so se tu te lo ricordi, Giuseppe, ragazzo ai capelli verdi, suonava con i Bertas. Mario! Avanti! Ah, che stai sbagliando! Mi sa che non è lo Splendore, è lo Splendor! Lo Splendore, era il cinema, era adibita sala da ballo, cosa? Bisogna andare uno dei bus in Baggana. Ma non era lo Splendor, era lo Splendor. Avanti, era lo Splendor, sempre Splendor, era. E tu sei della Sarissa, ma era lo Splendor. comunque ci siamo capiti, va. E no, io lì a Usito una volta sono stato tutta la sera ballando con questa tipa di carnevale e mi ha detto dammi un bacio, gli ho detto tu gli ti la maschera, lei c'è tutta la maschera, ragazzi, era tutta carta senza denti, ma carità, tu fuggi, ho detto scusa, ho visto un amico, tutta la sera fuggendo, che è stato alla pista. Cosa c'è, sei razzista, se non l'avevo detto era meglio. Vabbè, se a te piacciono quelle, a me no. Cappa di perdere i gusti. Avanti Giuseppe. Ehi, cappa di positivo. Io vi sto ascoltando con molta attenzione e sto ascoltando dell'ottima musica. Questi sono gli amici tuoi, mi Gianni. Abba Gold e non prendi questa musica. Belli, belli, è bello ritornare indietro. Bene, bene. Soffa chi tocca, riprendi per mano. Ma ce l'hai, Fernando? Sì. Bella quella, Bella, ti sto dicendo l'MP3 degli Abba. Se la tua radio mi legge, te lo faccio. Radio mi legge? Non lo so, pure lo stereo di casa se legge gli MP3. Giuseppe, qua leggiamo tutto leggiamo. Sia in macchina che in casa non c'è roba che non possiamo leggere. Cappa di positivo, Mastro Pierpaolo. Cappa! Per non staccare il CD, Mino, ti do la pena, me lo metti nella pena. Ma ho detto, non c'è problema. Ma a proposito di pena, di CD, di coso, ma posta elettronica non è arrivata a nessuno? Posta elettronica? Magari come un allegato, no? Gianni? Non ho controllato oggi, Giuseppe, la verità. Ebbene, mi pare che da spedita sabato. Appagappa, no, non l'ho controllato Giuseppe, perché c'erano sempre o mia moglie o mia figlia, quindi devo stare a lottare per pigliare il bucchetto, invece quando se ne vanno a letto me lo prendo con calma, e me lo sto sino alle due e mezzo. Alla gala, allora uno a testa, uno a te, la tua moglie e uno alla signorina. Pagare. E che cosa c'è di bello? Me la coppa mentre moduli dalla postazione fissa, ne? Grazie Giuseppe. Oh, figurati, c'è solo il Galaxy, gli altri li ho aggiunti dopo, però se vedi adesso questa mensola bisogna che gli metta qualche rinforzo sotto. Kappa. Ti ho detto che cosa li dovresti fare, la mensolina. Kappa, io invece sto pensando di traslocare. Mettete un'altra camera. Sì, metterlo nella camera dentro e lì sono anche più riservato. E infatti perché mi chiedono a vedere tutto, dai, è un po'... Vabbè, se non te ne frega niente non è che sia detto di caso, però se magari stai modulando con un'altra gente è un po' seccante, invece io ce l'ho in cameriera, in camera da letto e posso fare ciò che voglio. Cappa di positivo, Mario se la riprenda per gentilezza. Guarda, io ti do una memoria eterna e me le registro tutte quella canzone. Intanto già si fa in fretta, attacchi il coso, già scarica tutto veloce. Ma ci vuole un attimo anche tramite posta elettronica, lo sai come arrivano queste canzoni qui? Ui. Ma me le puoi mandare tramite posta elettronica? Sì, anche tramite posta si possono mandare. Allora, mandamene per posta. Cappa di qua, ma non tutto l'MP3 per far, se no ci vuole un anno. Quello che hai detto? E mi mando un paio per posta elettronica. E quella che spedisce subito per posta elettronica? Io lo so, ma gli allegati sono un pochino più lunghi, perché quello lì è compreso come MP3. Dunque, aspetta un attimino, aspetta un secondo, facciamo una cosa. Allora tu mi dai l'indirizzo di posta, e poi vediamo di fare qualche prova per va. Poi K, prendo carta e penna. Eccolo. Sì. Sì. Bombo 61, chiocciola, discale.it. Bombo 61, chiocciola, discale.it. Negativo, non bombo. Bombo 61, chiocciola, discale.it. Quindi bombola 61, chiocciola, discale.it. Capo di Rogero. Muy bien, lo registro immediatamente subito. Prendete voi, K. Ah, per K, riprendete. Eia. Poi, secondo quella settimana di canzoni, per K, lo fai anche a me. Dica che a te. La discoteca, Giuseppe, mi raccomando, quella degli anni 80, bellissima, quella che mi ha fatto ascoltare. Tutte belle, quelle lì erano. No, ma per quella ci vuole tempo. Mi mandano un paio di quelle degli Abba. Ma la base la bacio io, mi gio per faccio, c'ho il cidiccio. Tu mica me l'hai mai detto. Tu mi hai detto che ce la vivi, mi pare. Cosa, gli apa? Assolutamente. E allora io gli invio qualcos'altro adesso, se no facciamo doppio ogni Gianni. La bacio tutto il cd io, cazzo, non c'è bisogno di farlo giù, lavorare a Giuseppe, dai. Ti inserisci il cd, due e te lo vai. Vabbè, allora dammi il cd tu, mandami qualcos'altro. Cappa. Comunque Giuseppe, se vuoi tutte le musiche dei Gobri ce le ho, eh. Sì, qualcosina magari possiamo anche organizzarci. E quando apri la posta, registrati anche il coso, l'indirizzo mio, e tanto lo leggi. Indirizzo in posta elettronica. K, sia te che Gianni. K, sì, vabbè, io faccio il coso, mi rimane in memoria. Allora, adesso sto aprendo tutto l'ambaradan perché avevo tutto chiuso, eh. Il sito, il sittino e il sittone. Allora, Mondolo, cosa si dice in quei cipressi? Stavano a portare il computer. Stavano a portare il computer a Pierpaolo, deve essere. Ma ti immagini, Giuseppe, sono una pioggia l'Opel perché non funzionava il telecomando della chiave. Mi hanno cambiato il telecomando perché c'era il microchip che si era staccato. Non mi hanno ancora l'ho pagato. Sì, guarda, conoscendo i pezzi non meno di 80-100 euro sicuramente. No, senza la chiave, solo il coperchietto col telecomando 55 euro. La computa costa 100 euro. Gesù Maria, che ho preso il doppione, stavo per farmelo, più quando mi ha detto il pezzo, lo lascia prendere, cambia, mi sono il telecomando e basta. Ma io ci sono macchi. Credo una chiave, aiuto. Ma non è che sapete dove le fanno queste chiavi da codificare? Non so se quello di Via Napoli le faccia, comunque prova a avvicinarti. Quello fa tutto dalla lavetta, è proprio specializzato per fare chiavi. Mura di Napoli. Se dà la chiave per fa. K. Speriamo che me la faccia. Perché ho perso il doppione. E tanto sono carimi. 100 euro una chiave, ma dimmi il 2. 55 cosa? 45 la chiave, 55 mi pare che 45 la chiave, sì. E insomma sulle quasi 100 euro viene, eh? 55 mi pare il telecomando pagato e il resto la chiave, 45 euro. E che quasi supera la tua macchina? La mia macchina, sì, c'ha 7 anni mi pare. Allora già te la fa, perché devo superare 5 anni, dopo 5 anni gli danno i codici per fare le chiavi. Perché tutta in produzione ancora quel modello? No, la mia no. Non c'è modello nuovo. E allora sì, se anche uscita proprio in produzione. Allora sì, perché se sono nuove, che ancora in produzione non le fanno. Attenzione, attenzione, K. Signora mia, c'ha 8 anni. Vi avanti. Vai avanti, l'attenzione. Pier Paolo? C'è nessuno? Dimmi, dimmi, Giuseppe. E di chi dici ti piacciono? No, gli dici no. E che cosa ti mando? E vado a mia altra cosa, ma no, gli dici. Allora, vediamo un po'. Bocelli e Laura Pausini, Renato Zero, gli Abba, questa è un'altra degli Abba, Giuseppe Ferrieri, poi c'è Madonna, Al Stewart. Stewart. Belle Pop, si piace quella Black is Black. Chi is Black? Ma se c'hai un po' di cosa lì, di cose lì, delle grappue. No, quello no, no, no, no, quello è proprio, si allontana da me quello ogni volta che vado a cliccare. Non mi piace. No, no, mamma mia. Mariuru, mamma mia, Mariuru, Mario. Barbara Streisand, Woman in Love, Bee Gees, Barry White. Ma di Bee Gees c'è lo stile dei live, poi c'è la febbre del sabato sera. Carlos Santana, Europa. Boston, Rock and Roll Band. Oh raga, non ti piace. Ne è una bellissima, Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Una lacrima sul viso. Attenzione, 21. Avanti Capri. Buonasera a tutti, salutoni da Capri 2 da questa parte. Ho sentito state parlando di musica. Capa di positivo, Pier Paolo, Hotel California, Eagles. Revival, mica c'è Capri 2. Buonasera Capri 2, ben sentito, cordialità come sempre. Avanti Mario. Ciao Capri, buonasera, ben sentito. Come ne ascolti con quest'altro apparato, Capri? Benissimo Mario, benissimo, sentori mi sembra bene, intanto ti avvengo, io ho recuperato uno e poco fa. Non so parlare, però è tutta la capito sì. Comunque, gira gira arriva a toccare la bobina contro la sua pelle. Tipo quello che mi ha dato Alessio, preso l'etico. Guarda che io te l'ho detto, siccome sono un amico, se vuoi vengo con lei e carichiamo tutto, non c'è problema. Un altro mobile come questo lo compro e lo metto a fianco, cappa. Ok, ma se no possiamo fare così, io c'ho la station, la Volvo, già si sta anche nella... un po' carichiamo la mia anche, se c'è qualcuno che mi interessa. Ma tu di questi non ne hai, di queste epoche? E vabbè, io non c'ho di quell'epoca lì, ma già quelle che c'ho io, c'è vostro gabbacacco. Non lo metto in dubbio, ma no, io ho collezionato sempre questi, i primi apparecchi, io penso, questo me l'hanno regalato, ma c'ho tutto per metterlo a posto, perché spesso ne ho grabato, solo che Giacocca non mi darà vino. Riprendi Pierpa, buonasera, ti rimetto il cambio. Buonasera Capri 2, ben sentito Sì, anche voi mi state arrivando a poco, voi già queste stazioni belle, io sono la stazione della mutua sempre. Sì, vabbè, l'importante è partecipare, io visto che la chiacchierata con noi te la fai comunque, cappa. E allora ma se no lo sapete il giorno che non li ho più ci vediamo la sera a Piazza dei Sedi e parliamo in verticale. Ma no Capri 2, puoi sempre prendere la stazione di Campomelami, quella è voglia, quella è grande grande. E a me lui chiuse, tanto è anche abbandonata, non ne passano più treni, siamo 3 mesi che non passano treni più. K, abbiamo la montagna assassina. E a papà c'è la sua forma l'altro giorno, il cazzato nero era, perché lui lavorava le ferrovie allo Stato, ho iniziato a caricarlo, poi a oggi lo si è cazzato. Questa è dicendo un bel male, ti stai portando dietro un sacco di rumori e rumorini, pare una tombarella vecchia tutta carrogata. E adesso come fa, ma con la rumore insomma? Guarda, c'hai innischi, fischi, rumori, c'hai di tutto sotto. E ok, allora lo passiamo, e così... Ascoltatelo voi un poco, che a me mi ci scappa da ridere, Giuseppe. Come? Davvero? Mario, qual è il problema? Il problema è pulito pulito. E anche da me. Da me nessun fischio e nessun fruscio. Forse può essere l'ultimo vagone del merci che sta portando dietro qualche piccolo rumorino, però no. Riaumenta di nuovo come di prima, Capri. Apri due. Dimmi. Parellones. Sì, c'è le cuffie, Giuseppe. Seriamente adesso in questo momento, se ti fidi, non te l'abbiamo mandata noi, Non lo so, però io l'ho mandato anch'io già, non l'ho sentito a nessuno, anche ieri mi stava cercando questa, ora è venuta, sì, c'è una lampina, tutto quanto quello che vuoi, però diciamo io nel baracchino non l'ho mai sentita, anche stasera stavo parlando con Giuseppe, l'ho cercato anche con te. Tu non la sentivi perché praticamente eri era lontano ed era in macchina, non era a coso, a Muro, se era più vicino a Sassari, perché lei di Sassari, a quanto ha detto, se tu il ballo hai mai sparato, il ballo ti sto dicendo, gli ho chiesto di dove era, ma detto che era di Sassari. Non lo so, domani sono tutto il giorno col baracchino acceso, lo controllo passo per passo, quando mai non entro domani. Ma questa è venuta, però nel baracchino non l'ho sentita, questo c'ha questa antenna nella macchina, tutto quello che vuoi, non la conosco, non l'ho mai modulata e non so. Non so che io colleziono baracchini. Mi ha detto che ti conosce da tanto in frequenza a te. E quindi che siccome eri simpatico voleva venire a conoscerti tutto lì, però mi ha chiesto se eri sposato. Cazzo, cosa accetta? Se tu lo vuoi solo come amico, cosa accetta se è sposato o no? Ma come ce l'aveva? C'è troppa l'antenna. Ma nella grondaia c'era già, tipo quello io, però la palla è diversa, di quella appoggiare, c'è cosa della capota della macchina. Vabbè, comunque, ha avuto una bella faccia a te, sta avvicinarsi. Certo, della adesso cosa mi sta cercando questa qui, c'era. Però io forse ho qualche scherzo, qualche cosa del genere, perché io già in frequenza la maggior parte le conoscevo in verticale, tutte, avevo fatto un incontro in verticale, questa non lo so, e poi non mi ricordo, è qualche luna che se io non ho tanto tempo, però questa no, proprio Elena non mi dice nulla, è venuta, non mi dice niente a me, poi stamattina ho tagliato a forza perché sto lavorando sul posto di lavoro, non voglio che vengano a rompermi le scatole. E niente, io ho pensato qualche luna di queste che va in giro a vendere quei due secondi, tipo il Forletto, qualche una di queste. Magari sta facendo così per appiopparsi i clienti, si è buttato sul baracchino in macchina, così si appioppa clienti e vende, capito? Magari vuol fare queste cose qua. Adesso magari non dipende da te, Giuseppe, che ho capito cosa vede. Vuole fare la piccicosa, ha sentito magari ieri queste due che stavano entrando lì e si è presentata lì, capito? Voleva prendere la palla al balzo. Ma io domani mattina controllo anche se ci sono di queste persone nelle case in giro come vengono ogni tanto a prendere roba, prima di tutto che non mi compro di nulla perché c'è un aspirato tutto qui di quelle con le ruote che mia moglie è abbastanza contenta, mi parte di avanza. Poi, boom, se vuole pigliare qualche, come si chiama, discorso a mia moglie, però lasciami. Ma gli sei delicato, diciamo, non me lo occupo, era lì che tua moglie che sono amante tua. Te ne immagino. Mi sembra che una tipa così, senza marito, io sono liquidato subito, non già, non posso dare, perché ci ho venuti in contatti, quando arrivo con un viaggio devo tornare indietro, devo portare le mail, poi l'asilo, che non è facile, devo fare, per portare l'asilo fare i punti del paese a rappresentare, e quindi il tempo di perdere, da perdere non ce n'è così la prima mattinata. E vabbè, per una donna si può sempre perdere un po' di tempo, io ho capito. Una cosa, se non ti interessa, vabbè, non c'è problema. Comunque ci devi dire se è bionda, nera, così almeno sappiamo più o meno con chi abbiamo a che fare. Lo dicelo. Di cosa c'è, i capelli neri già, ce li ha a caschetto, ce li ha in una tipa di media statura e veste in jeans, veste, ed è una tipa ben curata, per l'età che c'ha, gli ho dato più di 35 anni, almeno sulla quarantina, così, a colpo, al primo colpo come l'ho vista, però io non la... è la prima volta che questa la vedo. Capito. Vabbè, comunque, magari è in cerca di adescare qualcuno, che ne so, ci sono quelle che sono furbacchione, adescano e poi magari per comprargli la roba, non c'è risolto, non lo so, non c'ho manco la minima idea di che cosa sia, di chi sia, no, magari la conosci pure, e allora se la conosco ti posso dire quella è così, quella cosa, ma no, se non la vedo non lo so, avanti Mario. Scusa, ma come tanti che siamo qua conosce proprio a lui? Che ne so, che fa? No, infatti lei ha detto di essere di Sassa, non è nemmeno dei paesi vicino a lui o del suo paese. Quindi lei dice di essere di Sassa, se la verità ha detto, non lo so, perché prima ha detto che era Tisi, poi l'abbiamo sentita a Caniga, poi ha detto che doveva andare da Bricco a comprare, si faceva risentire, poi Capri 2 ha chiuso e lei non è entrata lo stesso. A me non la pesca nessuno. Già, proprio io, perché io diciamo che anche il baracchino l'ho piantato dopo tanti anni, anche se ce ne avevo in casa, il baracchino lo ripianto adesso ai primi di ottobre di nuovo modulare. E niente, non la prima io questa, sinceramente già non l'ho vista, perché, ripeto, c'è già 36-37 anni quando modulavo all'epoca che c'era il phone, ne aveva 15 lì allora. Perché tu sei il grisuccia, il miele? Non so, comunque a me mi sembra qualche scherzo, già, non ti do manco peso. No, aspetta un attimino. Da parte nostra, te lo dico sinceramente, lo scherzo se dura poco e non continua sino a quelli veri lì, capito? No, così è pesante già lo scherzo, è molto pesante perché così già comprometti la persona, lo vedono i colleghi, tutto tanto, no, quello è così lì. Io se faccio uno scherzo lo faccio per ridere, poi dico sì, ho scherzato, basta, ma finisce lì. Non mi sono mai permesso, né io e né gli altri che frequentano qua, di fare certe cose. Allora, scusa un attimo, capisco. Allora, prima ti ricordo un'altra cosa, no? Allora, io in pratica sono tutto il giorno ascoltando. Prima ti dico una cosa, alle verso le 6:10, 6:15, ha chiesto anche a Gio Maria e a quello di Usini se ti avevano sentito, e loro gli hanno risposto, loro no, qua non c'è, lui dice perché non so che alle 17 ha detto, no, di solito noi lo sentiamo sul 21, sul 5, provo ad andare lì, poi è entrato Falchetto e ha fatto la stessa domanda a Falchetto, poi adesso ho sentito che anche a Luca. Insomma, ha chiesto anche a me, alle 7:10 ha chiesto anche a me, quindi ha chiesto un po' di gente, se lo scherzo te lo sta facendo, o è qualcuno del tuo paese che ti vuole fare qualche scherzo. parte nostra, no, dai. Perché questa qua esiste con te. Ma io che qua in paese ci conosciamo uno per uno, anche se non c'è niente che c'è il baracchino, c'è la mio cugino che fa il camionista, c'è il marito di mia cugina che ce l'ha che non modula, e a Carzieghi ci sono questi due ragazzi che fanno il trasporto, che ce l'hanno su casa, non è una cosa di qui. Allora, si lamenta. Frequenza, perché non parla, io adesso sono qui in frequenza. so perché non parla. Perché non è a casa, c'è solo in macchina, me l'hai messa a sé. Io parlo via stasera, e ho parlato un po' con te, un po' con tutti, e poi siamo qui, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi mi parlo un po' con te, e poi dire la verità che un po' di piacere te lo fa essere corteggiato. Guarda già, sono ho immune a quelle cose e devo solo io che prendo queste iniziative, capito? E però c'è qualche collettina sopra, non mi la roba, capito? Lo può essere io, hai capito? Che non ne può essere, anche perché sono una persona, cosa dirti io, da parte mia ti giuro che non è partito nessuno scherzo di quel genere, anche perché sono antipatici, queste cose le udi anch'io, specialmente nel posto di lavoro, dopo un bere scatole, ci sono colleghi e tutto, e vedono, ma quelli di paesi ancora meglio. Mandatela a casa, qualcosa da fare, gliela troviamo. Sì, è male, poi ti fanno male gli sforzi. Tanto le risorse sono le pace, io mi sento come arrangiati, fai tutto giù, così non mi ricordo con quello violentata. Le violentare tu. Ma... magari è una persona brava, non è a quelli belli. Comunque, piace sempre il buon bollino. Antonio non c'è, non mi sa nulla per caso numero di questa, perché l'altra sera che ero con Stefano è venuto una pipa, niente male, e non anche presentato, non le ho detto con qualche scherzo, mi ha fatto altro meglio, non per caso. Ah, non so qui. Sì, è entrato. E lui che te la fatti, non so nulla. È entrato. Sì. Ci sono amicizia di un terremoto, Il terremoto, il camionista. Padre Rogero, ti ha scritto, mascolo sogno, quando faccio le murate cecchi cecchi, KK. Lo siciliano. Ega. Va bene, va bene. E mette il panno, non ti è arrivato. No, c'ho in blocco, c'ho l'email in blocco. Perché qualcuno dopo fare il testo, la testa, che mi ha messo qualcosa che c'ho in blocco. Non te ne sai, tu no. Gregori Peck. No, ne so io, mica mi metto a toccare con le cose. Lo appoggio. Il nome è Alessio, chiedilo a lui. Lo appoggio, non lo capisco niente io di computer. Non del computer, ma già ti deve dire una cosa a Capridua. Sì, come mi succede sapendo che con l'apparecchio, era una. Sì, siamo a Tonello. Ti ha preso il fuoco tutto, meno male. Stavo bene, posso dire no. Ma ti ha preso fuoco? A te, mamma. Ciao, Gianni, stavo scherzando. Come va? Come va? Dimmi, cosa c'è? Oh, niente, a te c'è nulla, niente di particolare. No, non mi ha preso fuoco niente, a te. Cazzo, la sera però. Alle 2:30 già mi faccio sentire nelle pause. A te che non ho più sentito. Come va il bazar? Cosa c'è in vendita? Guarda qua, mi sono arrivata la macchina da cucire e adesso non mi accanto la vendo. 120 euro, lavoro una signora, mi ha dato un'occhiata stasera, venuta a casa. Bella, veramente bella quando mi ha fatto, ti giuro. Nuova, nuova, nuova fiammante. Quella che ti non farò dare a tu me? Sì, io. Ok, scusa, tolse di nuovo realizzarsi una donna. Ok, non pensavo che avrebbe procurato altra roba da prendere. No, perché ti sei andato a sedermi? Qual è il problema? Pensavo che ti sei avuto un ricordo, allucinato, sì. E stasera ho procurato un altro baraccone come quello valvolare che abbiamo tirato fuori. Oh, di cui mi abbiamo regalato due o tre l'altro giorno. Quasi una parità mondezza. Beh, infatti io ce ne sono per quelle posizioni, come... Sai che mi gira già mamma a Mario che voglio. Riprendi Mario Mansell. Io già vengo, già messo tutto a scappare. Stanno compagnia gli altri, li sto mettendo tutti quanti a fila indiana, uno davanti all'altro e niente. Sì, fai bene Mario. Saluti comunque mi sentito. Ehi, giappa, giappa, ben entrato anche a te. E Giulia, è così, Io l'ho detto, il Lilli è sempre pronto per andare a caricare la... Però deve essere, insomma, almeno bellina di presenza, Capri. Ok, ma che cosa deve essere bellina? La radio. E già son belle di presenza, già son belle. Però la penso che visto il tuo cane che c'ho su quella vetrinetta, bello è a te. Il microfono, visto. Pomponi di zecca, pomponi. Sì, due a grazie. Pomponi, no, no, questo che è corpo, no, lo sento. Li voglio restaurare anche io. Fare, ma Adriana, come poi vediamo qua di fare quella roba da Adriana, almeno di quei paio che ti ho chiesto. E niente, poi dove sono. Che rilanciamo, Giuseppe, spedito hai? Sì, finito e giusto in tempo per augurarvi a tutti la buonanotte, visto che sono già alle 11:15 e domattina ci si sveglia presto. E niente, ce la risentiamo sicuramente alle prossime. Buona giornata a tutti per domani, buon inizio di lavoro e buon tutto. Ci sentiamo domani, dai, buonanotte a tutti. Giuseppe, a San Sorrisino domani mattina. Campa di positivo, Mario. E allora ci sentiamo, perché tu dici, allora detto l'Androni, KK, anda bene, buonanotte Giuseppe, buon 144 e buona giornata per domani, va. Ciao, ciao. Ciao Giuseppe, buonanotte. Buonanotte Giuseppe, ce la recentiamo. In mattinata se ne ho voglia che di accendere, che non c'è altro da fare, se ci sei ci facciamo una chiacchierata. Mi prendi 2-1. Via capo, ci ho salutato, ciao, buonanotte Giuseppe. Beh, non lo prendo nessuno, vai Capri. E ho finito adesso ormai di parlare all'anima, sempre io lo devo riprendere. Siamo stato con Antonelli, vogliamo fare un corno, organizziamo un corno per vendere baracchini usati, e li raccattiamo e vendiamo, dire se ci stai. E voi, un casino l'ho detto per me, non saranno, o se volete fare vendita di coso a 25 anche al quadrato, alla fine del mese ci può andare, si porta lì. E se vede tutto, vedi? Io se vede tutto di qua, cosa è? Non mi faccio una camera grande io. Ma dicevo una roba così a vendere, non saranno. Ma io ho messo il garage, che aveva la vetrina anche all'epoca, e ne posso rimettere un'altra. Per vedere roba usata, capito, tasse, non è paghe, capito, usato, tipo portatello, poi noi vediamo solo paracchini, accessori CPE, capito, qualche uno già viene a comprare, vero e già. Non compro più niente, io non sono a posto così, mi basta baracchino monogatto, l'alimentatore e l'ospito, boh, basta così, non spendo più una lira, mi sono venduto tutto adesso, gli altri baracchini che avevo non c'ho più nulla, adesso ce l'ho monogatto. E ho venduto tutto perché c'era troppa roba qua e non faceva tenere. Infatti no, anche purtroppo i troppi erano molto sani, e niente, anche io sono fanatico di queste cose, poi ve l'ho detto, perché succede che queste cose, quando non ci sono più io, ci le buttano alla bambetta, perché a me piacciono, capito? Mia valla. Le ho vissute, però niente, poi vanno a fare fine brutta, perché i miei figli, boh, non so quanto possano essere interessati, però a me mi piace solo a vedere, anche se non li accendo, che ce li abbia. Sono dotati tutti di schema, di manuale, di hai capito, di istruzioni, e fa tutto. Qualche cosa li doniamo a qualche, come si chiama, museo di queste cose, c'è un muro di internet, ce li ha tutti, lo prendi per qua. Non un pochettino deluso, Chi? No. Per la situazione là l'ho sentita ancora. Restanterai. Un fatto, sì. Vabbè. È una questione di punti di vista, non tu. Gamba. A me non me ne frega niente. capisci a me. Vabbè, gamba. Ma vuoi? Detto questo, rilanciamo tutto al signor Mario. Non so se non tanto ci abbia questa passione l'amico Gatti, è vero, perché cioè, secondo me tenerli così buttati in una scatola è meglio farli fuori, cioè o li metti che la gente li veda, o se no è meglio non avere niente. Un uomo lo gatto, allora a quel punto lì è inutile dire la vetrina, quello, l'altro, e dovrei tutta una bella carica per andare in garage. No, così non servono a niente. Sì, ma la vetrina ma già la farò fare, di quelle tipo che c'ha i negozi, capito? Tipo quelle che ha fatto Fusaro, non so se avete visto, no? E ci metto i milioni che ci sono, però voi, te lo metto, è una cosa che lì dentro tu ne devi usare sempre uno, lì. A Torello io lo vado a parlare un po' bene, tu tanto ne devi usare uno. Lascia, va bene. Va, chi è? Andrè, monsieur, Andrè! Mi portate le offerte! Attacito, sì, si va bene. Siete pure qui, avanti. Non vedo uno che fa chiamata sul 21. Avanti. Ah, ecco. Va bene, dai, saluto e circolo a tutti, ora va la nana, dai. Perché c'ho un bel po' di mal di schiena. Vado tutto quanto a riposarmi, saluto e circolo a tutti, così non mi dimentico di nessuno. Perché se no poi mi dimentico di qualcuno, e non va bene. Saluto e no, circolo a tutti, buono 144, quando lo fate, dai, ciao. Ciao, vite, buon amico. E buon cavallo, fa domani. Pierpaolo, buonanotte con tutto, la KPU ti augura sogni d'oro e ci sentiamo domani, ok, riprendi Gianni. KPU, salutami a Elena. Già vediamo come va a finire questa storia, già te la saluto, anzi te la mando dove te la domando, se la ti compro. Fai così, mandala a me, mandala, fregati, e poi ci penso io. Fai bucai, facciamo così. Ok, niente, Gianni, riprendi. E comunque, hai dato via gli altri, però diciamo che c'hai un baracchino adesso come si deve, credo. No, sto usando un nuovo gatto, un Alan 48 Plus, e basta. Ma qui nel caso l'hai venduto, no? Ti ho venduto. Ah, no, ma eri così affezionato, non ci credo, Gianni. Ma che mi sta spuntando il naso dallo svite. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Se ne hai voluto comprare un altro, dai. Io ho preso questo, già davvero, questa è l'ultima. Ciao, Rena, buonanotte, buon 144 e tutte le prossime. Ho detto, se ci mando il Showmercam a riparare, ho detto, ci vuole quanto a comprare questo e devo aspettare. L'altro l'ho regalato a Torello, l'Argus, proprio per non tentare di, capito, di spendersi i soldi e niente, questo già... Già va bene, riprendi Pomponio. Tu sei dimmi, che fa? Giustato l'abbiamo questo Argus, santo me. Poi. Non sono con l'Argus. Chi mi ha trovato dell'Argus? Mi si va sotto che mondo è prete. Perché? Perché ci mancavano pezzi, lo sa giusto, ci mancavano quattro transisto, ho trovato così, o cosa, non lo so, comunque mancavano quattro transisto, ci potevano fare apposta un apparecchio, ci ho buttato la realtà. Che non si trova. Da verde me l'ha dato così ancora, infatti io niente, non avevo mai toccato, mi ha dato quel transistor pure, ho provato... ammetto, però non sapevo minimamente che ci mancava roba dentro, perché come me l'ha dato era, Scusi, mi sono accorto, ma accendeva addirittura. Sono riuscito a farci una luce rossa, poi mancavano i cosi, quel transistor e... ho preso il caso vampando, la verità, perché non voglio avere roba in più di quello che c'è, capito? A me la camera è un casino qua, e l'hai visto, ma la camera è un casino, quindi... per quello posso tenermi i pezzi. No, io anzi ero propenso anche a mandarlo da Giancarlo giù per vedere a posto, però lui ho letto qui il gioco, non mi pare la candela, perché subito poi c'è quello di Mario lì che devono arrivare i pezzi e poi c'erano dentro tutti questi giri e ho preso questo da Stefano proprio, capito, ho trovato di cuore, perché se no per me era arrivato da una parte buttato. Però che ci mancavano tutti a lei minimamente perché come me l'ha dato questa verde era, non so poi se lui ci era provato a ripararlo, infatti non c'è manco, manco lo schema, mi suppone che sei l'unico che c'ha quello schema. Sì, infatti tutto con quello, a me guardate che mi dai quel microfono che devo dargli a lui a Stefano, perché il vostro non è a posto. Quindi mi interessa solamente quello, lo fai tutti fino di tu, a dopo da te. Fatemi un altro microfono e noi siamo a posto, poi nient'altro. Il microfono è pronto, come qui, te lo do, solo, solo che io non ho potuto di andare a Sassari a passare, non ne ho problemi per quello. Vabbè, non c'è problema per quello. Quando poi, prima di giovedì, passano da su, se no io buono, scusa dirti la verità, io scendo di giù, non posso scendere da te. Se sei tu al limite ai 5 minuti, lo sali. E te lo passo io, dai, non c'è problema, come te lo passa a salire, devo anche andare, capito? Non ho problemi, non ne ho, l'importante è che ti trovi quando vengo, che non faccia viaggio a volo, cioè. Non c'è solo qua, non ti preoccupare tu, ma tra le chiavi ne sono qua. Ok, perfetto. E con la tua luce adesso facciamo riprendere a Mario. Mario, avanti. Cappagnata, lui è sempre qui. Candovei, no, è sempre, no. Candovei, ultimamente la sentiva a Chino. E anche lui gli sta passando la fantasia. Prima ci andava al canale di chiamata per poco, canale 14, cambia basso, vero poco. E la volta era così, la verità, se avevo la fidanzata a Panacchino, avevo qualche bel soldi, avevo un bel birra, la verità, perché si arrivano qui, cioè non qui, di là, più che altro. Dalle 8 di mattina a Genova e Palla venivano e fino alle 10 metri di notte, 11 di notte, quindi mi divertivo. Ma adesso ormai i tempi sono cambiati, non c'è quasi più nessuno e quindi bisogna adeguarsi. Gianni, sei sveglio ancora? Già sono sveglio. Io te lo sto dicendo, no, io adesso posso stare anche sino alle 2, alle 3, sono i figli, quindi posso permettermelo di stare sveglio. Io potevo fare già, però sai che attualmente lo salvo che è situato l'apparecchio e quindi non è che posso, anzi mi hanno fatto già accenno di spegnere subito perché c'è il ragazzo che si alza a una certa ora, passa il fumo alle 7:30 la mattina, quindi devi trattare, diciamo, lavarsi, fare colazione e bisogna alzarsi presto e niente, io poi anche se rimango fino a un'ora tardi, già mi alzo lo stesso, però non voglio arrecare di turbo agli altri, ripeti. Fa giusto che sia così, bisogna rispettare anche gli altri. Anche mia moglie quando viene a letto io lo spengo, la verità, non sta a rompere. E ok. Niente già, cosa volete che mi dica? Come stiamo facendo? 12:30, adesso mi saluto anche io e niente, faccio quei venti e ci risentiamo domani, ci risentiamo, riprendi Mario. Buonanotte K2, 44 e niente, tutte le prossime. Sappa di positivo. Oh, e anche io ne approfitto, dai, che me ne vado a letto e mi guardo un bel film di Charles Bronson e niente. E poi se ne riparla domani. Buonanotte a tutti e alle prossime. Riprendi dopo. Ciao, vai, comunque un film l'hai già visto, meno 15 volte. Quindi, ma che film al limite tu vedi qua? Tanto siamo sempre qua. Ehi, già, papà, io ci sono dalle 4 del mattino qua. Non so se avendo l'idea, perché accompagno, cioè prima rientra cosa, domenico, poi parte già nel Giappone, ha preso lui, c'è, poi c'è Mario Terremoto e compagnia bella, là, quindi c'è, non c'è problema. E il Franchetto li accompagniamo se non va con me. Se ti vuoi, io ti faccio alle 4 di mattino, anzi 4 e mezza per la sette, la facciamo giù più giù. Quindi fino alle 7. Poi a posto mi sono messo la nostra fila di 11 e mezzo, poi mi fanno a mangiare le balle. Stamattina mi sono svegliato. Beh, va bene, va. Non proseguo il buon tutto, ce la riascoltiamo. Ciao già. E buone fili, Grazie, grazie Mazzo. Sono dovuto andare per la Bellucchia, ma non me la fanno, me la fanno fin là. Vabbè, comunque ci sentiamo. Buonanotte Mario, e buon lavoro per domani. Avanti Pontunio e poi, anzi no, avanti chi arriva su Pierpaolo. Non c'è Antonio. Cappa, buonanotte Mario, ce la risentiamo domani. O le prossime, ciao ciao buono. Vai, buonanotte, sono tu alle prossime. Ciao, beh, c'è Fabio che mi ha chiamato la telefono. Fabio, ci sei? Fabio, Fabio, Fabio, tu che c'è? Gli altri, è rimasto. Dammi tutto. Io ce n'ho uno così. Ma ce n'è uno così. Ma basta adesso, non invidiarsi. Cosa me ne fosse? Anche troppi, anche mi piace quello lì, perché mi piace una bella modulazione. Già l'hai provata pure tu, l'ho sentito appena che ti ho già detto quello che sono andato a fare il tuo culo, ho capito subito. Come mi farò bestia la radio con l'ecco? No, poi ho fatto bene anche, ho fatto una meraviglia. Iaia, va bene, andate, mi sa che anche io faccio QRT e vi auguro una buona notte a tutti, ci sentiamo alle prossime, adesso me ne vado un po' al PC, ciao ciao! Ciao, beh, dai, buonanotte a tutti, dai, io vi saluto, ciao ciao, ciao, gaba! Fatto che ciao ciao, alle prossime, fatevi bene, buonanotte, buon tutto, allora. Ciao Alessio, ciao Antonio, buona giornata per domani. Ciao.